anelare alle facoltà dell'occultismo, come un cieco anela alla facoltà normale della vista. Può un'intera serie di vittorie conseguite in molti anni e in molti paesi rappresentare una sconfitta? Il generale Löwenhielm aveva esaudito i desideri del tenente Löwenhielm e largamente soddisfatto le sue ambizioni. Si può dire che gli si era conquistato il mondo intero, ma ora, dunque, il saggio e orgoglioso uomo maturo si rivolgeva alla giovane ingenua figura per chiederle con gravità, fin anche con amarezza, quale giovamento ne aveva tratto. A un certo punto, un certo non so che, s'era smarrito. Quando la signora sua zia aveva detto al nipote dell'anniversario del decano ed egli aveva deciso di andare con lei a Berlevag, la sua decisione non era stata semplicemente accettazione di un invito a pranzo. Stasera, decise, avrebbe chiuso i conti col giovane Lorenz Löwenhielm, che in casa del decano s'era sentito una figura timida e triste e che, alla fine, ne aveva scrollato via la polvere dagli stivali. Avrebbe indotto il giovane a provargli, una volta per tutte, che 31 anni prima egli aveva scelto la strada giusta. Le stanze col soffitto basso, lo stoccafisso e il bicchiere d'acqua sulla tavola davanti al suo piatto avrebbero testimoniato che in quel mondo l'esistenza di Lorenz Löwenhielm non avrebbe tardato ad essere tutta realmente triste. Lasciò che la sua mente vagasse lontana. A Parigi una volta aveva vinto un concorso ippico ed era stato festeggiato da alti ufficiali della cavalleria francese, tra i quali erano principi e duchi. Un pranzo era stato dato in onor suo nel più raffinato ristorante della città. A tavola, di fronte a lui, stava una nobil donna di famosa bellezza che egli aveva corteggiato a lungo. A metà del pranzo ella lo aveva fissato, oltre il bordo del bicchiere di champagne, con scuri occhi di velluto e senza parlare gli aveva promesso la felicità. Ora, in slitta, ricordava tutto a un tratto che in quel momento egli s'era veduto davanti per un attimo il viso di Martina e lo aveva respinto. Indugiò un poco ad ascoltare il tintinnio dei campanelli della slitta e poi sorrise lievemente al pensiero che quella sera egli avrebbe dominato la conversazione alla stessa tavola alla quale il giovane Lorenz Löwenhielm era rimasto seduto in silenzio. Grandi fiocchi di neve cadevano fitti e i solchi lasciati dalla slitta erano rapidamente cancellati. Il generale sedeva impassibile a fianco di sua zia col mento affondato nell'alto bavero di pelliccia del pastrano. Capitolo 10. Il pranzo di Babette. Quando il folletto dai capelli rossi, che era al servizio di Babette, aprì la porta della stanza da pranzo e gli ospiti ne varcarono la soglia lentamente, questi non si tennero più per mano e rimasero in silenzio. Ma era un dolce silenzio perché, in spirito, essi si tenevano ancora per mano, cantando. Babette aveva messo una fila di candele in mezzo alla tavola e quelle fiammelle brillavano contro le giacche e le vesti nere e contro l'unica uniforme scarlatta e si riflettevano nei chiari occhi umidi. Il generale Löwenhielm vide il volto di Martina alla luce delle candele, come lo aveva veduto 30 anni prima, quando i due si erano separati. Quali tracce avevano mai potuto lasciarvi 30 anni di vita a Berlevag? I capelli d'oro erano adesso striati d'argento, il viso, tanto simile a un fiore adagio, si era fatto d'alabastro. Ma quanto serena era quella fronte, e quanto pacato e fiducioso quello sguardo, quanto pura e dolce la bocca, come se mai parole avventate fossero uscite da quelle labbra. Furono tutti seduti e i membri anziani della congregazione ringraziarono il Signore con le parole dello stesso decano. Possa il mio cibo nutrire il mio corpo, possa il mio corpo sostenere la mia anima, possa la mia anima in atti e in parole rendere grazie al Signore per ogni cosa. Alla parola cibo, gli ospiti, con le loro vecchie teste chine sulle mani giunte, ricordarono